Anche chi dorme in un angolo pulcioso, coperto dai giornali, le mani a cuscino, ha avuto un letto bianco da scalare un filo di luce accesa dalla stanza accanto. Due piedi svelti e ballerini a dare calci al mare nell'ultima estate da bambino. Piccole giostre, tanta luce e poca gente, è un giro soltanto. Anche questi altri strangolati da cravatte che dentro la 24 ore portano la guerra, sono tornati con la cartella in braccio al vento che spazza via le foglie del primo giorno di scuola. Raggi di sole che allungavano i colori sugli ultimi giochi tra i montarozzi di terra e al davanzale di una casa senza balconi, due dita a pistola. Anche quei pazzi che hanno sparato alle persone bucandole come biglietti da annullare, hanno pensato che i morti li coprissero, che non prendessero freddo e il sonno fosse lieve. Hanno guardato l'aeroplano e poi l'imboccano e sono rimasti così, senza inghiottire né sputare, su una stradina e quattro case in una palla di vetro che a girarlo viene giù la neve. Anche questi cristi caduti giù senza nome, senza croci, sono stati marinai dietro gli occhiali storti e tristi, sulle barchette coi gusci delle noci. E dove sono i giorni di domani, le caramelle ciucciate nelle mani persi dal mondo, di tutti i cuori dispersi nel mondo, quelli che comprano la vita degli altri vendendogli i bustini e la peggiore delle vite, hanno scambiato figurine e segreti con uno più grande, ma prima doveva giurare. Teste crollate nel sedile di dietro, sulle vie lunghe clacsonanti del ritorno dalle gite, un po' di febbre nei capelli ed una maglia che non vuole passare. E i disperati che seminano bombe tra poveri corpi, come fossero vuoti a perdere, come se fossero pupazzi, seduti sui calcagni arrovesciato sassi. È un mondo di formiche che scappava, le voci aspre delle madri che li chiamavano sotto un quadrato di stelle dentro i cortili dei palazzi, e la famiglia a comprare il cappotto nuovo e tutti intorno a dire come gli stava. Anche questi occhi, fame di nascere per morire di fame, si son passati un dito di saliva sui ginocchi e tutti dietro un pallone in uno sciame, leggeri come stracci, e dove fanno a botte, dov'è un papà che caccia via la notte di tutti gli uomini persi dal mondo, di tutti i cuori dispersi nel mondo. Thank you. tutti i cuori di te.